bella bentonita. Per creare un laghetto, che non sarebbe un laghetto, quindi sarebbe un bacino, un vaso, si dovrebbe impermeabilizzare tutto il fondo di una base di cemento, però dentro è una bruttura. Non è un lago. Io vai lì qua.